vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 12 di Ratto di Campagna, Topolino di Città. Questo programma di Radio Big World un po' scalcinato, almeno dalla mia parte, perché ovviamente ho i pantaloni sporchi di terra dell'orto. Non ci dimentichiamo che tra qualche giorno sarà luna crescente e quindi qui siamo tutti in fibrillazione per piantare il nuovo orto che in primavera e in estate ci darà i frutti e che magari tenteremo di vendere ai fiorentini. Insomma, bando alle ciance, questo è il programma che esplora le differenze che stanno tra la provincia e la città, tra la campagna e la metropoli. Ma io da solo, che di campagna sono e ratto lo sono, forse anche da vite precedenti, come sarei in grado di spiegarvi come si vive in città? Ci ho provato a andare a studiare e mi hanno espulso sia dalla scuola che dalla città. Pertanto ci rivolgiamo a colei che ne sa, a colei che quando a noi la maestra ci diceva di andare a fare una ricerca e andavamo in biblioteca, copiavamo le enciclopedie degli anni 60, mentre lei aveva già Wikipedia. Laura! Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Ma io non ti avrei espulso però dalla città, dai. Vabbè, ci ritornerò. Ammesso che questo sindaco, insomma, sia più gentile con me di quelli che sono venuti prima, che a Firenze proprio non mi ci volevano. Ma poi dopo le mie lezioni sarai pronto, prontissimo. Appena arrivo in comune gli domando: scusi, ma i fuochi di San Giovanni dove li fate? Sono comune di Firenze, mi raccomando, vado in giro col tucano. Laura, fiorentinamente parlando, anzi fiorentinamente mangiando, parliamo un po' di quelli che sono i piatti tipici, i prodotti tipici che si consumano, si cucinano, si mangiano a Firenze. E direi di cominciare proprio dall'inizio. E c'è un tipo di antipasto o antepasto, quindi che si mangia prima delle portate principali, che è un crostino che c'ha una salsa molto particolare e noi comunemente lo chiamiamo il crostino nero. Laura, il crostino nero, tu come lo fai? Allora io non lo faccio perché so che è molto difficile per farlo buono. Lo compri già fatto, in gastronomia non è male, è una delle poche cose che se compri già fatte te la puoi gustare. Il crostino è l'antipasto per eccellenza, è il crostino nero, che poi è con i fegatini, ma non lo diciamo mai, no? Diciamo un crostino nero, senza specificare di cosa si tratta. Quindi chi non lo sa domanda: ma cosa c'è dentro? E vagheggiamo, perché se gli si dice il fegatino magari non lo mangia. Ah, infatti, vabbè, si mangiano di più noi, dai. No, è il crostino per eccellenza, tanto che, senti questa, all'elementare addirittura una mia compagna di classe ce l'aveva per colazione. E diceva: io mangio il panino col crostino, cioè il crostino era la salsina nera, il fegatino, e quello era il panino col crostino. Quindi è così diffuso che a Firenze, insomma, se parli di antipasto ti viene automaticamente in mente quello. Non ce n'è altri di antipasti così diffusi a Firenze, anche da voi suppongo, però dai, è un po' toscano. Qui da noi, in una frazioncina che si chiama San Leolino, lo fanno in una maniera addirittura particolare, cioè calcano la mano con il cappero. Pertanto, nascondendo il cappero, il sapore più forte, per esempio, dei fegatelli, viene un sapore molto molto particolare, piacevolissimo. Ma c'è anche chi lo fa con la scorza di mela o la scorza d'arancia, è ancora più buono, che delicato. Pensate, Quindi anche del classico antipasto ci possono essere tante varianti, ma l'importante è che non manchi sulla tavola. Allora, diciamo per chi non ha assaggiato il crostino che i fegatelli non si sentono, sono talmente nascosti nel sapore della salsa che neanche si percepiscono, per questo non vi diciamo che ci sono. Però c'è una cosa che non è fattibile dire che è qualcos'altro, perché è evidente quello che è, e è tipicissima fiorentina, e cioè il lampredotto, che io confesso di aver cominciato a mangiare solo verso i 40. Il lampredotto, Laura, quanto è comune a Firenze? Il lampredotto è il prodotto fiorentino per antonomasia, perché veramente esci da Firenze e non lo trovi, o ne trovi di cattive imitazioni. Proprio è circoscritto al comune di Firenze e molto spesso sconosciuto fuori. Poi se spieghi che cos'è, molti storgono il naso, però se lo assaggiano nessuno ne rimane deluso, perché è veramente buono. Allora, il lampredotto poi ha tutto il suo fascino anche nel rito con cui tu lo consumi. Quindi vai dal paninaro, vai al baracchino che ti chiede, il paninaro ti chiede se vuoi il pane bagnato, ti chiede se vuoi il piccante, ti chiede se vuoi la salsa verde, e ti fa il super panino, che è veramente una delizia. E molto spesso non ti basta, sai? Cioè ti lascia un po' ancora un po' di fame. Allora devi prenderne un altro, però un altro non ce la fai a mangiarlo. A metà magari, no? Se uno è in due, dice, vabbè, il secondo si smezza. È bello anche il rito con cui tu ti gusti il panino con l'ampredotto. Allora l'omino generalmente è bello, bello aggressivo, bello fiorentinaccio, ti dice se lo vuoi col pane bagnato, rigorosamente sì, non ti provare a non prendere col pane bagnato, senza pane bagnato, perché è come prendere la bistecca alla fiorentina troppo cotta, insomma non osare, mi raccomando. Okay. Pane bagnato, salsa verde, piccante, sale e pepe, questi sono i condimenti. Ti mangi il super panino, che poi tra l'altro costa anche poco, cioè alla fine costa sui 3-4 euro, no? Se ci pensi bene, insomma, è abbordabile come cifra. Poi per i più goderecci c'è il bicchiere di vino in accompagnamento, è veramente un ottimo prodotto, ne vado fiera io del panino con lampredotto. Quando ne parlo e tutti chiedono che cos'è, poi dopo storgono il naso, no? Perché insomma l'interiore, cioè fa un po' senso pensare a che cos'è, però poi se l'assaggiano si ricredono tutti. Confermo che il lampredotto è fiorentinissimo, perché io ho scoperto della sua esistenza perché un amico mio aveva dei cugini che stavano a Firenze e gliel'avevano fatto mangiare. E sì, è vero che è uno degli stomaci della mucca, sì, è vero che è molliccio, però messo nel panino con la salsa verde, con il brodo, e cucinato come viene cucinato nella tradizione fiorentina, effettivamente è buonissimo. Esatto, ma poi insomma non tutti possono permettersi di vendere il lampredotto, dicono che ci sia tipo una mafia sotto. Ah, cioè, sì. Se tu che non sei nessuno, che sei semplicemente Giorgio, vuoi aprire un baracchino e vendere il lampredotto, pare che insomma qualcuno si ostacolerà, ecco, che non ti venga in mente quest'idea. Secondo me è veramente redditizio, perché i migliori sono sempre pieni di gente a qualsiasi ora. Ah, sì? Forse qualcuno ci fa pure merenda, non lo so. Quando qualcuno mi viene a trovare lo porto sempre, quando qualcuno non di Firenze mi viene a trovare lo porto sempre a mangiare il lampredotto, e nessuno rimane mai deluso. Oppure quelli che proprio si rifiutano a priori perché gli fa senso l'idea, ma insomma dai, non sono degni delle nostre prelibatezze culinarie se rifiutano a priori il lampredotto. Qui al mercato c'è un furgone, questi che distribuiscono roba da mangiare, c'è un furgone del lampredotto che viene da Firenze e infatti è pieno di gigli, immagine della Fiorentina, mi pare che dietro ci sia tipo la curva Fiesole. Questo tizio allora ha pagato il racket. Può darsi. Io non glielo domanderei, perché molto spesso sono belli piazzati i venditori di lampredotto. Sì, sarà il brodo, sarà il fumo, sarà il lampredotto. Effettivamente sono dei bei noccioli. Dai panini al pane, perché in buona parte della Toscana, se si esclude Lucca, via, e soprattutto in Firenze e zone limitrofe, il pane da noi è sciocco e senza sale. Allora, innanzitutto sciocco, non dirlo fuori dalla Toscana perché non capiscono cosa significhi. Ah sì? Senza sale, esatto, senza sale, allora sì. E rabbrividiscono i non toscani, ma dai, ma il pane senza sale, ma come, ma cosa? Il pane deve essere senza sale, perché? Secondo me c'è un motivo, perché da noi vanno tanto di moda gli affettati. Allora, se te ci metti un bel prosciutto, un bel salame sopra, alla fine che ti serve il pane salato? Non ti serve a niente. Siccome loro, secondo me, guarda, ti parlo da fiorentina orgogliosa, siccome loro hanno gli affettati insipidi che non sanno di niente, allora ci vuole il pane salato. Ci mettono il doping. Ma poi una mia amica, appunto, schifata da questo pane che non sapeva di niente, che si voleva fare la fettunta, la bruschetta, e dice, io ho detto, ma ce la metti il sale, e hai risolto il problema, no? Beh, è abbastanza semplice. Ho conosciuto una tizia pugliese che aveva studiato a Firenze, aveva fatto l'università, da loro il pane è salato barra salatissimo, e lei diceva che era talmente disgustata dal pane nostro che scappava quando ne aveva l'opportunità a Bologna per rifarsi un po' la bocca con del pane salato. Pensa. Addirittura, ma vabbè, ma dai, nei nostri panifici lo trovo se lo chiedi il pane salato. Devi specificare, forse la differenza è quella. Da noi dici un mezzo chilo di pane, se non dici niente il panettiere dà per scontato che tu lo voglia toscano, quindi senza sale. E se dici pane col sale, nel 99% dei panifici c'è. Invece se vai fuori dalla Toscana dici un pezzo di pane, per loro se non specifichi è salato. Ognuno le sue, dai. Col pane senza sale però si fanno anche altri piatti, mica solo la fettunta, per esempio la ribollita e per esempio la panzanella. La ribollita è un piatto invernale perché c'è il cavolo, le verdure e è piuttosto pesantuccia. La panzanella è estiva perché è fresca e viene fatta con verdure di stagionissima. Sì, ma è un po' pesante anche la panzanella, visto che la cipolla gioca un ruolo fondamentale. Uno si fa una corpata di pane. Piatti economici che però riempiono, forse hanno un'origine contadina, insomma, di chi aveva pochi soldi ma tante bocche da sfamare. E la pappa al pomodoro anche. E la pappa al pomodoro, senz'altro. Tra l'altro, come dire, panzanella, ribollita, pappa al pomodoro, alla fine erano ricette per riciclare pane troppo duro, perché un tempo mica c'era il fornaio che lo vendeva e mica si mangiava tutti i giorni fresco, anzi si andava una volta al forno col proprio pane e quello durava tutta una settimana e a volte anche di più, chiaro, indurendosi, lo si bagnava nell'acqua e ci si faceva questa specie di zuppe, insalate, insomma, che sono la ribollita e la panzanella, e che pur essendo roba di riciclo, quindi fatte con le scarti dell'orto e con il pane duro, a Firenze in certi ristoranti anche solo un piattino viene fatto pagare l'ira di Dio. Ecco, con la scusa che si tratta di un piatto tipico, anche se poi il valore dei due briciole di pane è scarso, però vabbè. Il turista deve essere un po' fregato, se no non c'è gusto. I fiorentini sono banchieri, fanno i conti in tasca, occhio quando andate lì, tirate fuori il portafoglio e fanno la radiografia di quanto c'è dentro. E costosissima, ma mettiamola così, è il prodotto culinario fiorentino più conosciuto nel mondo. Come si fa, Laura, a non parlare della bistecca? Allora, la bistecca è il nostro fiore all'occhiello, però devo dire che anche fuori Firenze si mangia abbastanza bene, anche da voi, dai, sempre in Toscana, rigorosamente. Anzi, sa qual è la differenza? C'è una differenza lessicale. Allora, noi diciamo la bistecca. Sì. E chi viene da fuori invece dice, ma vado a mangiare la fiorentina. Ecco, noi non lo diciamo la fiorentina, perché per noi la fiorentina è la squadra. Vabbè, la bistecca. Così come il lampredotto, il panino con lampredotto deve essere bagnato, se no che te lo mangi a fare il panino con lampredotto. Anche la bistecca, la fiorentina, deve essere mangiata al sangue, se no che te la mangi a fare. se devi mangiare una bistecca stracotta, ecco, evita proprio, prenditi un'altra cosa. Ma in molti ristoranti, sai, il cameriere, il cuoco si rifiuta proprio di farla troppo cotta. Ho visto diversi posti, giuro, dove c'è proprio scritto: qui la bistecca alla fiorentina si serve solo ed esclusivamente al sangue. Ma è giusto. Cioè, io dico, se a me non piace la bistecca al sangue, io non la mangio la bistecca, perché la devo prendere più cotta? No, mangio un'altra cosa. Allora, non togliamo l'originalità di un prodotto che è buono perché è così, perché deve essere cucinato così. Insomma, da quando la metti in bocca, che ti si scioglie in bocca, la bistecca alla fiorentina è pura poesia, accompagnata a un buon vino rosso. Insomma, effettivamente. Poche cose migliori. Però è anche difficile trovare un posto dove la fanno buona. Ma sì, a Firenze secondo me ci sono anche posti dove è abbastanza scadente la carne. E guarda, io penso, nella mia vita, la domanda che ho ricevuto più volte in assoluto riguardante il cibo e Firenze è: dove posso andare a mangiare una bistecca buona? Me l'hanno chiesta in mille, veramente. Insomma, non ti hanno chiesto, scusi, ma le cappelle medice dove sono? Dove no. L'ingresso agli Uffizi, ma la bistecca alla Fiorentina? No, esatto, mi hanno chiesto 100 volte sta cosa. Poi io, insomma, ho dato consigli in base alla mia esperienza diretta. Insomma, a me piace mangiare la bistecca, quindi dopo aver girato qualche ristorante posso dare buoni consigli agli amanti della bistecca. Però ecco, lo sottolineo sempre, la prendi al sangue, vero? Ecco, sì, se no fattene a casa sua. Quanto grande è la bistecca fiorentina per voi fiorentini? Ma senti, non lo so, nei ristoranti te la portano, te la fanno vedere da cruda e tu la devi scegliere, come quando ti fanno assaggiare il vino, te la portano. Ma davvero, certo, e dici, va bene, può andare bene questa, un chilo e due, perché insomma la porzione dipende dal taglio della carne che è disponibile al momento, quindi insomma dipende cosa trovi. Guarda, mi sono fatta delle scorpacciate, non lo so quanto era. Roma da gotta! Esatto! Dunque, la fiorentina la si cuoce sulla griglia, la fiorentina la si cuoce alla brace e lo fanno i ristoranti perché hanno la cucina attrezzata, eccetera. Ora, noi qui in campagna molte case dispongono di giardini, del campo, dell'orto, si va alla capanna, nel bosco e in qualche modo si accende un fuoco e si fa la bistecca. Ma a Firenze dove vai? C'è gente che c'ha il barbecue sul balcone mentre c'è le macchine che gli sgassano, gli autobus che gli scaricano lo smog, oppure a Firenze non si usa fare la griglia e si fa qualche altra cosa? Sì, si usa. Chi c'ha un giardino, dai, ora speriamo che lo smog proprio non arrivi a contaminare la bistecca. Chi c'ha un giardino lo fa al barbecue, cosa tipicamente maschile, quando la donna si vuole riposare o pensare solamente ad apparecchiare la tavola, l'uomo si mette al fuoco e alla brace, insomma, la ciccia viene buona. C'è anche questa tradizione. Poi anche noi magari si fa una scampagnata, da Firenze per salire sulle colline, insomma, sono 10 minuti, quindi case fuori città, semplicemente anche piccoli giardini, appezzamenti di terreno o anche aree attrezzate nei boschi, insomma ci piace utilizzarle per fare queste scampagnate. Sa molto primavera, infatti, insomma, la grigliata fuori porta dà il via alla bella stagione, oppure anche di Pasquetta, Ferragosto, queste feste comandate in cui una bella grigliata è sempre una soluzione vincente. Quindi non è strano vedere sui balconi fiorentini, passando con l'autobus o con il tucano, insomma, il barbecue lì, coperto probabilmente se non è usato. Ma no, dai, oddio, molti non le vedi perché sono attici a Firenze che il fumo delle bistecche sale verso il cielo, dai. Okay. Non lo puoi vedere, voglio essere poetica. Quindi è un'offerta agli dèi, in buona sostanza, sì. D'accordo, poi sappiamo ormai che le case di Firenze hanno l'affaccio segreto e probabilmente i barbecue stanno lì e non sulla facciata trafficata delle case. Esatto, e poi sì, che ne vuoi sapere? Urca miseria, già ho la panza piena e sono costretto a attivare il secondo stomaco, che è lo stomaco del dessert, quello che hanno tutti. Uno è strapieno, non ce la fa più, arriva ai dolci e trova lo spazio per quelli. Dolci tipici fiorentini, dolci tipici che si trovano nelle pasticcerie di Firenze oppure che si fanno in casa, quali sono, Laura? La scacciata alla fiorentina, come dice il nome, è il dolce più tipico che si fa a carnevale. E è semplice oppure ripieno di A, crema, B, panna o C, cioccolata, insomma, te la scelta. Ah sì? Ma... sì, sì, sì. Però ecco, in generale forse siamo un po' carenti dei dolci tipici, tipo Siena, già Siena ce n'è di più perché tutti i dolci natalizi sono tipici senesi. Quindi non il panettone, il pandoro, il torrone, voi non ce li avete, ecco, o il panforte per rimanere a Siena. Il panforte è senese, però data la vicinanza è anche un po' nostro. Comunque... dato che ce la siamo conquistata, Siena! Ma sì, ma sì, anche il ricciarello, dai, un morso, ce lo meritiamo. Sono dolci buonissimi, effettivamente. Sì. Però... come si fa a non ricordare, Laura, le parole di un grandissimo poeta quasi stilnovista delle nostre parti, cioè Enzo Ghinazzi in arte pupo, che cantava in Firenze Santa Maria Novella la colazione con i bomboloni fiorentini! Ma sono fiorentini, per me erano un po' di tutti, però sì, pensandoci bene, fuori Firenze ne trovi meno. Il bombolone fiorentino, sì, mi piace a me tanto, è bello, bello sostanzioso, una colazione come si deve, con la crema proprio che esce appena dal primo morso, non quelli che, insomma, prima di arrivare alla crema deve dare 5-6 morsi, no, quelli proprio ripieni, zeppi di questa crema gialla che ti esce da tutte le parti subito, buoni, sì, è vero, guarda, fatto bene a ricordarli e ringraziamo Pupo che te li ha ricordati. Fritti pieni di crema e ricoperti di zucchero. Tra l'altro, ricordi di studente, ma quel bar e quella pasticceria esistono ancora, in una delle viuzze che tagliano via del Proconsolo, pertanto fiorentinamente si direbbe angolo via del Proconsolo, c'è un bar con la pasticceria che è al piano di sopra, dove fanno i bomboloni e quando sono pronti li buttano da sopra a sotto attraverso una colonna con degli scivolini e si vede questi bomboloni che cadono e finiscono sul bancone. Ora è meno poetica di così, io me l'avevano descritta, quando andai a vederla rimasi deluso, però effettivamente no, questa... dai, lasciaci immaginare una bella immagine, anzi guarda, me la sto già immaginando. Ma poi in molte pasticcerie c'è il cartello, è dalle ore 16 bomboloni caldi, quindi sì, l'importanza del bombolone, guarda, non è da sottovalutare a Firenze. C'è da domandarsi se Pupo intendesse parlare proprio dei bomboloni in sé o cercava qualcosa e facesse rima con Antonioni. Chissà. Vagliela a chiedere, tanto è tuo vicino di casa, scusa, fai un salto un attimo, la prossima volta ce lo sveli. Il giornale ieri titolava Pupo si svena per l'Arezzo, 10.000 euro per pagare i debiti che sono almeno più di 300.000. Grande Pupo, siamo con te. E rimanendo a Pupo, alla Santa Maria Novella, il ferroviere con le scarpe rotte, il mercato centrale dove vanno i turisti, dove la propaganda, la pubblicità, andate, lì troverete la vera fiorentinità. E in effetti è un posto molto carino. È vero che al mercato centrale ci sono i prodotti migliori di Firenze, come carne, pesce, formaggi, o è un mito del passato, o è addirittura un mito inventato dal sindaco, insomma. Ma io penso di sì, poi col fatto che hanno aperto la parte superiore dove puoi proprio andare a mangiare, hanno riqualificato anche un po' e aumentato la qualità della parte inferiore dove ci sono veri e propri banchi del mercato. La carne tipica fiorentina la trovi lì, questa cosa trovi anche lì se vuoi, la poppa per esempio, l'avevo mangiata la poppa? L'ho mangiata una volta, la poppa di mucca, mi raccomando. Sì, no, vabbè, grazie. Allora, per esempio, quando parlavamo del panino con lampredotto, una variante, un'altra cosa totalmente diversa, ma che viene sempre venduta da alcuni lampredottari, è il panino con la poppa, che è una carne un po' più delicata, ha sempre la stessa struttura, pane bagnato, salsa verde, e la poppa anche la puoi fare a casa, però non lo so in quante macellerie la trovi, e al Mercato Centrale c'è, così come c'è il lampredotto, se te lo vuoi cucinare a casa, ci sono diversi tagli di carne, dai, sì, è un fiore all'occhiello per Firenze il Mercato Centrale. Effettivamente il Mercato Centrale è bellissimo da girare, tanto sotto quanto sopra, e ora è molto tempo che non ci ricapito, ma ai tempi in cui studiavo prima che mi buttassero fuori, effettivamente lì si trovava ancora le donnine che parlavano quel fiorentino tipo Aldo Palazzeschi, non so, ma ora dai, saranno prendi, tutti cinesi. Prendi il treno e ci arrivi bene, tornaci, dai. Con questa indigestione che ci siamo fatti di prodotti tipici che si mangiano a Firenze, che si sognano a Firenze e che noi in provincia, se li abbiamo solo in pallida imitazione, ringraziamo Laura per averci cucinato a puntino. Chiediamo scusa vegetariani perché ci siamo un po' sbilanciati sulla carne, a parte la schiacciata alla fiorentina, però mi sembra che per il resto abbiamo parlato solo di ciccia. Firenze non è vegana, insomma. No, assolutamente. Prego, alla prossima allora. Ringraziamo anche gli ascoltatori di Radio Big World che probabilmente già ora si sono messi ai fornelli oppure sono scappati in bagno perché hanno un po' la nausea, non ce la fanno più, da quanto hanno pensato e immaginato di mangiare. Pertanto ci diamo appuntamento alla prossima fiorentinata.